Questo venerdì 3 febbraio, intanto i titoli, il Sole 24 Ore dedica molte pagine al mercato del lavoro e alla riforma, il titolo è Fornero, riforma anche senza intesa, c'è anche un'intervista al presidente di Confindustria Marcegaglia, l'Italia cambia se cambia il lavoro, questo in prima pagina. Per il Corriere della Sera la vicenda Lusi, si indaga su altri fondi, i soldi sottratti all'ex Margherita. Per Repubblica passa la legge anti-giudici. La Stampa, Monti ai partiti, siate leali. Il Fatto Quotidiano, loro rubano, i PM pagano. Libero, adesso pagano anche i giudici. Il Messaggero, giudici chi sbaglia paga. Vedete questo tema, no? Dell'emendamento Pini prende molte prime pagine dei giornali. Anche il Giornale, giudici, la pacchia è finita. E invece per il Manifesto licenziabili, e c'è la foto di Elsa Fornero, il ministro del welfare, e Mario Monti, il premier, mentre sbanda Monti sull'Unità con la foto del premier dopo l'infelice uscita per l'Unità sulla questione del posto fisso. Che monotonia, che barba, che noia, che noia, che barba. Allora, i vitalizi. Come detto, molti giornali non potevano non partire da qui. Notizia principe della casta, no? I deputati anti-taglia ai vitalizi, 15 su 26 sono leghisti, così titola il Corriere della Sera. Tutti pongono l'accento su questo fatto. Dateci il vitalizio a 50 anni, i leghisti guidano la rivolta, pagina 14 di Repubblica. Sono soprattutto leghisti, sono esattamente 15 della Lega, molti ex parlamentari, 3 del PDL, 3 dell'Ulivo, 1 di Rifondazione, 2 di Forza Italia, 2 di Alleanza Nazionale, vabbè, quindi andrebbero messi nel PDL. Comunque 15 della Lega, anche per il Giornale, la Lega dimentica Roma ladrona e lotta per le onorevoli pensioni. Cosa vogliono questi parlamentari? Come detto, al grido di non si cambiano i diritti acquisiti, avevano promesso loro che il vitalizio sarebbe stato erogato a partire dai 50 anni, ora è stata cambiata la legge, dai 60 anni almeno. Non intendono perdere 10 anni di vitalizio e hanno fatto ricorso. Deciderà quell'organismo della Camera, presieduto dall'onorevole Consolo, che sarà nostro ospite alle 8.30, insieme a un paio di questi ricorrenti. Avremo il ritorno dell'onorevole Roberto Rosso, l'unico che ci ha messo la faccia. La settimana scorsa è uscito, l'ho scoperto prima che uscisse la lista. E poi avremo un ex leghista, ex parlamentare leghista. Ci sono anche l'onorevole Daniele Molgora, che noi chiamammo una mattina e disse: sì, però adesso sono preso, devo portare i bambini. Poi spense il cellulare, non ha mai più risposto alle nostre chiamate. C'è anche l'ex onorevole Adriano Paroli, sindaco di Brescia. Noi abbiamo contattato più volte il suo portavoce nei giorni scorsi, che negava, diceva: no, non so nulla di questo ricorso, non sappiamo niente di questa storia. E invece ha fatto ricorso anche lui. Oreste Rossi, che ieri era anche, credo, alla Zanzara, oggi è eurodeputato della Lega, intervistato da Libero a pagina 12, è spettacolare nella sua spiegazione. Senta, guardi, dice: io ho pagato non una ma 144 rate per avere la pensione a 50 anni, è una cosa privata, ho il modulo protocollato della Camera e so quello che dico, ho finito di pagare l'ultima rata a novembre, 3 mesi fa, e a dicembre mi dicono che tutti i soldi che ho versato non servono a niente. Arrivederci e grazie. E cosa ha pensato? Chiede a quel punto Brunella Bolloli. Lei cosa avrebbe fatto? A me sono girate le palle moltissimo, sa? Risponde l'eurodeputato Rossi. Perché io ho aderito a una forma di assicurazione volontaria che ho pagato per 12 anni, dopodiché la Camera mi dice: lei è un pirla. Abbiamo scherzato. E io dovrei accettare tutto questo? Assolutamente no. E ho fatto ricorso. Se fossimo in tribunale normale vinceremmo di sicuro, perché è come essere stati truffati. Qui invece siamo nelle mani di un organo presieduto da uno che dice che il ricorso è inutile. Cosa fa lei adesso, eurodeputato? E prendo 6.197 euro netti. Il vitalizio dell'Europarlamento lo prenderò dopo, a 63 anni. Quindi sta facendo ricorso l'ex onorevole Rossi, che prende attualmente 6.197 euro, prenderà il vitalizio da europarlamentare a 63 anni e chiede anche il vitalizio da ex parlamentare italiano. Ne parleremo alle 8.20. Le 8.30, vi voglio segnalare un'altra notizia che il Corriere della Sera mette a pagina 26. È una notizia, secondo me, di uno spreco assurdo. Mi ha colpito moltissimo oggi leggerla. Medici, lo spreco milionario delle etichette salva privacy. Pensate che ogni ricetta, quel ricettario rosso, no? Che tutti prima o poi abbiamo ricevuto dal medico quando ci fa una prescrizione, dall'inizio del 2005, racconta Simona Ravizza sul Corriere, in Italia sono state prodotte quasi 3 miliardi e 500 mila etichette salva privacy da attaccare sulle ricette per coprire il nome del malato. Peccato che da allora praticamente nessun medico le abbia mai utilizzate. Lo confessa Roberto Carlo Rossi, presidente dell'Ordine dei Medici di Milano, che dice: è il prodotto più inutile del mondo, la cui destinazione finale è la spazzatura. Milioni di euro buttati al vento, soldi prelevati dalle casse pubbliche inutilmente, mentre il sistema sanitario è corto di risorse, uno scandalo che i medici, esasperati dagli ennesimi tagli annunciati alla sanità, trovano insopportabile. La vicenda è questa: per ogni ricetta lo Stato stampa una complessa etichetta per la tutela della privacy composta da due strati con una pellicola di carbone, ma praticamente non la usa nessun medico. Uno spreco colossale. Beh, è incredibile, io vorrei sapere quanto sono costate allo Stato e quindi a noi stampare alla zecca dello Stato, all'Istituto Poligrafico, 3 miliardi e 500 mila etichette salva privacy in questi anni. Uno spreco senza fine, lo denuncia lo stesso presidente dell'Ordine dei Medici di Milano. Mi ha molto colpito, leggete questa storia, pagina 26 del Corriere della Sera. Poi, guardate, io non lo so se prenderla sul comico, sul surreale. Vi lascio con questa riflessione prima della pubblicità. Scilipoti ha colpito ancora. Scilipoti era andato a fare un viaggio in Brasile e oggi il Corriere della Sera pubblica la foto di un alter Scilipoti, di un suo sosia, un vero e proprio sosia, uno che è uguale a lui, a pagina 17. Domenico Scilipoti si è superato, non era facile, ma pur essendo in Brasile in qualità di presidente dell'Associazione Parlamentare di Amicizia Italia-Brasile, l'altro ieri è comparso anche in una presentazione, quella del libro del collega Razzi, con Berlusconi. È comparso uno che era identico a Scilipoti, al che il TG3 lo ha avvicinato e ha detto: ma scusi, ma lei non è Scilipoti? E questo signore ha risposto: siccome a Scilipoti hanno tolto la scorta, a volte anche noi usciamo per qualche mansione. Noi? Cioè Scilipoti ha dei sosia che manda in giro, come Saddam Hussein che mandava in giro i sosia. Scilipoti e il sosia di Scilipoti. Alla presentazione del libro di Razzi si è materializzato uno identico, una goccia d'acqua, ecco, di Scilipoti, che ha detto: gli hanno tolto la scorta e quindi noi usciamo per qualche mansione. Cioè Scilipoti, che ha vari sosia per questioni di sicurezza, pare, da mandare in giro. Viva l'Italia! Andiamo a sentire la pubblicità. 24 mattino. Le 7:35 minuti, e allora la notizia con la quale aprono molti quotidiani è quella della responsabilità civile per i giudici. Ieri è passato un emendamento del leghista Pini, l'onorevole Pini, che sarà nostro ospite alle 8:20. Responsabilità diretta per le toghe, pagina 14 del Sole 24 Ore. C'è da dire che intanto è passato alla Camera, ora deve passare al Senato prima di diventare legge. Il Ministro della Giustizia ha già detto: mi auguro che venga fermato, che venga cambiato questo emendamento. Chi sbaglia paga. Questo è l'inizio dell'articolo di Donatella Stasio, lo slogan brandito contro i magistrati dall'ex guardasigilli Alfano non più di 8 mesi fa, ha trovato alla Camera un'ampia maggioranza. Ieri, complice il voto segreto, è stato approvato l'emendamento del leghista Gianluca Pini sulla responsabilità diretta delle toghe, senza più il filtro dello Stato, anche nei casi di violazione manifesta del diritto. In pratica, quello che non era passato sotto il governo Berlusconi si è dunque materializzato con il governo Monti. Tra l'altro, governo che di fatto è andato sotto. È tutta una serie di commenti, polemiche per la stampa. Ugo Magri a pagina 6, una rivolta di peones dietro l'agguato a Montecitorio. Quanto sta accadendo dietro le quinte del teatrino è l'opposto di come appare. Sembra di assistere a una lotta furiosa con la tensione tra i partiti alle stelle, il povero Monti sempre più in bilico. L'ultimo episodio alla Camera è proprio sulla responsabilità civile dei magistrati. Insomma, una vicenda che sta suscitando molte polemiche. Il Giornale e Libero sono molto contenti, sì alla punibilità dei magistrati. C'è invece tra i magistrati chi fa notare, con una serie di interviste, che già c'è la legge Vassalli, che punisce il magistrato in caso di errore. Nello Rossi, per esempio, procuratore aggiunto a Roma, intervistato da Alberto Custodero su Repubblica, pagina 2, dice: così si scateneranno vendette e intimidazioni di chi viene condannato. Dice Rossi: sgombriamo il campo dagli equivoci. Il principio chi sbaglia paga vale anche per i magistrati. Già oggi il cittadino che ha subito danni ingiusti a causa di un comportamento, un atto, un provvedimento giudiziario compiuto da un magistrato con dolo o colpa grave ha diritto al totale risarcimento da parte dello Stato dei danni subiti, e lo Stato a sua volta si rivale nei confronti del magistrato, infliggendogli tra l'altro una pesante sanzione economica, un terzo del suo stipendio di un anno, lo prevede la legge. Il problema è: ma questa legge viene applicata oppure no? Ebbene, come fa notare Giovanni Negri su Sole 24 Ore a pagina 14, ieri dati che sono stati resi noti dall'onorevole Enrico Costa del Popolo della Libertà, il Popolo della Libertà denunciato dal 1988, sapete quante condanne nei confronti di giudici sono state emesse in base a questa legge, legge Vassalli? Solamente 4. Il PDL denuncia solo 4 condanne inflitte dal 1988. Questo è un modo di dire: sì, è vero che da parte della magistratura si dice che la legge c'è, in realtà la legge viene applicata in casi rarissimi, in 4 casi secondo il Popolo della Libertà. Beh, certo, comunque questo è stato un duro colpo politico per il governo politico di Mario Monti. Lui stesso l'ha definito una sorta di governo politico, tanto che Mario Monti ieri, per correre di pari, ha chiamato ABC, ha convocato ABC, che sono Alfano, Bersani e Casini, vale a dire i leader dei partiti. Monti chiama a rapporto Alfano, Bersani e Casini. Ora non esagerate, questo è il titolo di pagina 7 della Stampa con l'articolo di Paolo Baroni, anche per Repubblica l'allarme di Monti chiama a rapporto i leader, un vertice nella notte a Palazzo Chigi. Con Monti si è parlato di tutto, ma certo questo colpo subito sul tema giustizia, il Premier ha chiesto una modifica. Il governo è tra i due fuochi, scrive Goffredo De Marchis, la maggioranza strana va in frantumi sulla giustizia, bisogna correre ai ripari. A cena Mario Monti convoca i leader della coalizione Alfano, Bersani, Casini. Si parla di Europa, al vertice europeo, ma il discorso si allarga, tema anche giustizia. L'altro tema spinoso che è sul tavolo è quello della riforma del mercato del lavoro. Oggi il Sole 24 Ore si concentra molto su questo tema, c'è tutto un dossier sulla riforma del mercato del lavoro, che cosa in campo, i cambiamenti. Il ministro Fornero ha detto la riforma va avanti anche senza intesa. Con la riforma del mercato del lavoro si cercherà un'intesa fino all'ultimo, ma si procederà anche senza. Questo è anche la linea del governo Monti, e vi segnalo tra l'altro che c'è un'intervista al presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, intervistata da Alberto Orioli. L'intervista è in prima pagina e poi continua all'interno, è tutta una pagina, pagina 5. L'incontro è andato bene, così inizia l'intervista con Marcegaglia. presidente di Confindustria, che non sceglie, scrive Alberto Rioli, frasi di circostanza per valutare il vertice tra governo, imprese e sindacati. È stato un bene, dice Marcegaglia, non avere documenti chiusi da parte di nessuno. Lo stesso ministro non ha portato documenti, ma ha illustrato gli obiettivi del governo essenziali e totalmente condivisibili. Vale a dire creare occupazione, alzare i salari attraverso un recupero di produttività delle imprese. Giustamente ha detto che l'obiettivo del governo e di tutti noi è quello di fare l'accordo. Se poi ciò non sarà possibile, il governo comunque varerà la riforma. Mi sembra ragionevole e sottoscrivo. Il titolo dell'intervista a pagina 5, l'Italia cambia, se cambia il lavoro, ripete, è un'intera pagina in cui si parla di tutti i temi, la flessibilità in entrata, mentre gli ammortizzatori sociali, sui quali il presidente di Confindustria dice non è detto che resti tutto congelato, si potrebbe immaginare anche di modificare da subito alcuni aspetti dell'attuale disciplina. Si tratta di facilitare il reimpiego attraverso una buona formazione, ad esempio attivando una politica di ricollocazione per chi sia in cassa straordinaria o in mobilità. Per quel che riguarda poi il nodo centrale, uno dei nodi centrali dell'accordo, vale a dire l'articolo 18, dice il presidente di Confindustria, il tema è la flessibilità in uscita ed è sul tavolo del confronto. Sull'articolo 18 non intendiamo affrontare questo argomento con furori ideologici. Non è in discussione una pretesa libertà di licenziamento, non ci interessa, non ci appartiene, non è il nostro modo di fare, essere imprenditori. Crediamo che anche l'Italia però debba adottare una normativa in linea con l'Europa. Per esempio, l'importante è abbreviare i processi, la decisione sul reintegro deve arrivare entro un anno, non di più. Un'impresa non può ritrovarsi, magari dopo 6-7 anni, l'obbligo di pagare gli arretrati e di reintegrare. A questo proposito sia il Sole sia il Corriere della Sera puntano su questo aspetto, no? Delle cause che si protraggono per anni sulla vicenda dell'articolo 18. Per esempio Isidoro Trovato sul Corriere della Sera, pagina 9, racconta l'esperienza sotto il titolo «Licenziata e riassunta per sentenza 8 anni in causa con l'articolo 18» di una dipendente di una famosa assicurazione italiana, la chiameremo Carla la dipendente, anche se è un nome fittizio. La vicenda è questa. Compaiono segni vandalici in una filiale di provincia di una famosa assicurazione, mettono le telecamere e si scopre che questi danneggiamenti sono della dipendente. Viene licenziata per giusta causa. La linea difensiva della dipendente si basa su questo. È stato un raptus passeggero. In primo grado la signora perde su tutto. Si ricorre però in appello e dopo 4 anni il giudice d'appello nomina un perito che accerta, dopo una faticosa ricostruzione, che in effetti quel raptus Carla poteva averla avuto davvero in un momento in cui era incapace di intendere e di volere. Tanto basta al giudice per ordinare il reintegro della dipendente, condannando l'assicurazione al pagamento di 4 anni di stipendio arretrato pari al periodo durante il quale risultava licenziata. Sta di fatto che dopo 8 anni la vicenda non è ancora chiusa. Certo, sono paradossi, ci sono tribunali dove le cause di lavoro viaggiano più spedite. A questo proposito, a pagina 7 del Sole 24 Ore, con Claudio Tucci, c'è un po' una mappa su come funziona. Al sud il licenziamento è sempre illegittimo, questo è il titolo a pagina 7. Giudice del lavoro che vai, sentenza che trovi. La Corte d'Appello di Campobasso ha ritenuto illegittimo un licenziamento per minacce di morte a un superiore, mentre i magistrati di Milano hanno considerato la stessa fattispecie giusta causa di recesso del rapporto di impiego. Due pesi e due misure anche al Tribunale di Avellino. Due cause di licenziamento dei dipendenti che avevano utilizzato la linea aziendale per ricaricare la propria tessera telefonica sono state giudicate esattamente all'opposto. In un caso l'azienda è stata obbligata alla reintegra del lavoro, mentre nella sezione accanto a soccombere è stato il lavoratore. Insomma, anche questo non aiuta. Non aiutano, cari ascoltatori, neanche le battute, diciamolo francamente. Una battuta che voleva essere ironica, che è diventata una battuta molto infelice, quella sulla monotonia del posto fisso. Oggi, Iena, sulla stampa, pagina 3, monotonia. Pensa che palle dover fare il premier per tutta la vita. Ascoltiamo le informazioni sul traffico. Allora, la vicenda Lusi, la vicenda dei soldi truffati all'ex partito della Margherita, quello ci ha fregato, ma la colpa è solo sua, io non potevo controllare. Fa un'intervista Francesco Rutelli, all'epoca leader della Margherita, ieri è comparso da Lilli Gruber. Io non l'ho visto alla 7, ma oggi Nicola Porro, il vice direttore del giornale, fa un commento in prima pagina dal titolo Psicodramma in diretta e dal titolo Onore al soldato Rutelli. Onore al soldato Rutelli, ci ha messo la faccia, l'emozione di un politico navigato che deve spiegare come a sua insaputa sia stato possibile che il suo tesoriere Lusi rubasse 13 milioni. Al di là di quello che succederà per quel che riguarda la magistratura, scrive Porro, ieri Rutelli non è scappato, ha risposto da soldato ferito alle incalzanti domande poste da Lilli Gruber e anche Antonio Padellaro. Oggi fa un'intervista, intervistato da Repubblica a pagina 12, Rutelli, che dice, beh, dice come il Boy Scout sia diventato, sapete, era Boy Scout, è Boy Scout Lusi, come il Boy Scout sia diventato uno che prende soldi per sé, per comprare delle case, per me è una cosa inspiegabile. Lusi ha fregato noi e la nostra buona fede, ma la verità è stata accertata in meno di 24 ore. La linea, in questa intervista di Giovanna Casadio, è proprio questo, cioè ha fatto tutto da solo, non si poteva sapere nulla. È vero che ero cointestatario del conto della Margherita, ho aperto il conto all'inizio dell'estate 2001 con la firma congiunta con Lusi, dopo di allora Lusi è diventato legale rappresentante, io non ho mai fatto assegni o bonifici, dice Rutelli. Estratti conto non ne ho mai ricevuti, però i livelli di controllo c'erano, erano quattro. In primo luogo il tesoriere aveva la fiducia di tutti, la sua era una gestione di partito arcigna, severa, restio a rimborsare perfino un Pony Express, tanto che il profilo che emerge di questo Lusi è quello di un dottor Jekyll e Mr. Hyde, cioè tutti dicono era uno anche molto duro, appena uno prendeva un taxi e non poteva farlo, appena uno appunto chiedeva un rimborso di poche decine di euro per il partito, magari per un'iniziativa, era cattivo, molto ostico nel dare soldi, e poi come sia possibile che si sia trasformato in, da una parte in Mr. Hyde e poi in dottor Jekyll, questo è un po' il mistero. Attenzione però che su Libero, pagina 4, la linea pare questa: Lusi è scomparso, cioè fino al momento non parla con nessuno. Ieri il fratello, che era nostro ospite, che è sindaco di un paesino in provincia dell'Aquila, ci ha detto anch'io non riesco a parlarci, lo cerco ma non mi risponde al telefono. Furia Lusi, attenti a scaricarmi, così titola pagina 4 Libero, con l'articolo di Elisa Calessi. Viene dato come arrabbiato, amareggiato ma sereno, come sempre combattivo, a pochissimi con cui ha parlato Luigi Lusi fa capire di non essere affatto rassegnato. L'unico con cui parla sicuramente il suo avvocato Luca Petrucci, però scrive Libero, con chi gli ha parlato ha fatto sapere che intanto è indagato e non imputato, come a dire che le accuse che vengono mosse non avrebbero prove così solide come sembra. Sta di fatto che questa vicenda ancora oggi è molto, molto, molto presente sui giornali, così come è presente ovviamente la vicenda del gelo, del freddo. Anche oggi non l'ho detta come notizia, 3 febbraio, notizia, fa freddo, è inverno, fa un gran freddo. I treni si bloccano, alcuni treni si bloccano, c'è il viaggio di sé raccontato sul Corriere della Sera di un avvocato che dice su un Intercity, l'Intercity da Trieste a Foggia, 35 ore, 35 ore in un vagone. Avrei potuto prendere l'aereo da Milano a Sydney, da lì aspettare la coincidenza per Wellington, trovare in Nuova Zelanda e magari anche ritornare imbarcandomi per Singapore. 35 ore invece, Trieste, Foggia. Racconta l'isteria a bordo, l'assalto ai viveri, l'abbandono. È l'avvocato Matteo Di Bari che racconta come, anche con ironia, a pensarci bene, in quest'Italia di maltempo sono stato il primo a partire e l'ultimo ad arrivare. Effettivamente 35 ore da Trieste a Foggia. Beh, insomma, non è mica male. A Roma invece hanno deciso, questa decisione il sindaco Alemanno, considerata da alcuni un po' bizzarra, sicuramente un po' pasticciata, non ho ben capito. A Roma oggi si è deciso che le lezioni sono sospese, però le scuole non sono chiuse. Roma teme la neve, non so, nevica a Roma? Io qua siamo a Milano, non mi risulta, mandatemi un sms, ditemi se nevica a Roma. Teme la neve e sospende le lezioni. I presidi protestano, dunque in previsione del rischio neve è sospesa l'attività didattica. Allora niente scuola? No, le scuole rimangono aperte. Gli studenti sono liberi di restare a casa e giocare a palle di neve, se nevica, se c'è la neve, oppure possono andare a scuola. Se stanno a casa non devono giustificare l'assenza. Però pare che i presidi protestano perché i professori invece sì, perché la scuola è aperta, cioè sospesa l'attività didattica, ma le scuole sono aperte, quindi i professori devono andare e se sono assenti devono giustificare l'assenza. Invece gli allievi possono e gli alunni possono decidere se andare a scuola oppure andare a giocare a palle di neve, che forse c'è, ma forse più probabilmente no. E allora, che dire... Sono quasi in chiusura, sì, troverete molto anche di questa vicenda incredibile, io cito solo il titolo di molti giornali, stupro di gruppo, carcere facoltativo, questo è il titolo per esempio della Stampa, no al carcere obbligatorio per gli stupri di gruppo, è bufera sulla Cassazione, questa è Repubblica, oppure il Messaggero, carcere non obbligatorio per gli stupri di gruppo. Una vicenda controversa e molto un po' anche tecnica, come tutte le sentenze della Cassazione, ma certo messa così ha subito scatenato giustamente l'indignazione di molti molti italiani, che per lo stupro di gruppo ci possa essere la possibilità anche di non mettere nel carcere, ovviamente preventivamente, gli autori appunto dello stupro. E poi che dire, vabbè, voglio chiudere semplicemente, no, mi ha colpito il titolo della Gazzetta dello Sport oggi, Juve sei favorita, ma io pensavo che fosse finito il campionato, ieri ho detto inopinatamente complimenti alla Juventus per aver vinto il campionato, pensavo che fosse così, invece evidentemente no, vabbè, comunque cosa fatta, ecco, cosa fatta per la Juve, campione d'Italia. Ora ci fermiamo, il giornale radio.